Grazie Giuseppe, grazie Pastore, gli facciamo un applauso a entrambi, sono grandissimi. Pastore, questa è tua, io te la... grazie, me la volevo mettere sotto la giacca, ma non ho una giacca. Benvenuto stamattina, dai il benvenuto alla persona che è alla tua destra e poi anche alla tua sinistra. Fatto? Come stiamo? Tutto bene? Bellissimo. Volevo fare uno scherzetto a Laura, un applauso al Team Power, grandissimi! Siete belli, belli, belli! E grazie, ve l'avevo preannunciato che avrei fatto uno scherzetto. E quindi mi diverto così. Ma non perdiamo altro tempo, di cosa parleremo oggi? Di Dio, di Gesù, quanto è bello Gesù, a chi piace Gesù? Ci sono persone che sono qui magari per la prima volta, per la seconda volta? Bellissimo, facciamo un applauso a queste persone per favore, perché questa è anche casa vostra, benvenuto a casa, quindi diciamo insieme a queste persone, benvenuto a casa, rilassati. Ah, sei a casa, quindi stai tranquillo, se vuoi puoi toglierti le scarpe. Se ti sei lavato i piedi però chiaramente, perché comunque manteniamo un decoro. Sapete, abbiamo parlato in un live della settimana scorsa, il live è l'incontro dei giovani che abbiamo il venerdì, di un tema molto molto bello che ha smosso parecchio le nostre vite. Abbiamo parlato di paure, le paure, abbiamo anche visto un video che ci ha proprio spiegato meglio che cosa sono le paure. Che cosa è questa parola anche così grande nella nostra vita, che spesso guardiamo e neanche ci rendiamo conto effettivamente di che cos'è la paura. E noi siamo arrivati un po' a questa conclusione: le paure sono quelle cose che noi spesso guardiamo e scegliamo di voltarci dall'altra parte, di correre nella direzione opposta alle nostre paure, proprio perché ci spaventano. Però in realtà è proprio dietro le nostre paure che si nascondono le più grandi vittorie che Dio ha preparato per te. Quindi quello che abbiamo voluto fare è un po' comprendere meglio che cosa sono le paure e come affrontarle. Spesso le nostre paure sono legate a qualcosa di terreno, a qualcosa di materiale, a qualcosa che è legato alla nostra vita qui sulla terra. Vi faccio degli esempi così magari lo capiamo meglio. Per esempio, no, spesso ci capita, parlo per la fascia d'età, no, degli upside down, poi andremo più avanti, e gli chiedono sempre i ragazzi, ok, come sta andando a scuola? Devi recuperare una materia. Con che voti sarai promosso? E quando ti diplomerai? E poi si diplomano questi ragazzi, bravissimo, e andrai all'università. E che indirizzo scegli di fare? E poi iniziano l'università e quando prenderai la laurea? Quanti esami ti mancano? Come sta andando? E poi magari sono single e le iniziano a chiedere, quando ti troverai un ragazzo? Quando ti troverai una ragazza? E quando ti sposerai? E quando avrai un bambino? E che lavoro vuoi fare? E poi quando avrai il secondo bambino? E quando comprerai una casa? E quando comprerai un'altra casa? E poi magari, non lo so, iniziano situazioni con i figli e ti dicono, ok, come sta andando con tuo figlio? E come pensi di fare con quel problema che ha tuo figlio? E come pensi di migliorare la tua situazione lavorativa? E ci sono sempre queste domande, no? Sempre domande che ci vengono poste, che non fanno altro che alimentare dentro di noi le nostre paure, perché ci spingono a pensare che la nostra vita è quella che viviamo qua sulla terra. E queste domande ci portano ansie, ci portano preoccupazioni. Sapete perché? Perché ti fanno... è come se tu ti sentissi ogni volta che ti fanno questa domanda un passo indietro rispetto a dove dovresti essere. E quindi ti chiedono, e non sei ancora laureato, perché magari tu pensi, ok, questa persona si aspetta da me che io oggi già dovrei avere una laurea tra le mani. Oppure ti chiedono, e quando ti fidanzi? Perché quella persona magari si aspetta da te che tu dovessi già essere fidanzato, e questo ti mette paura, ti mette ansia, dice forse io non sono giusto, forse non mi trovo nel momento giusto, nel posto giusto. Questa è una grande bugia, non è così, non è così. Perché tu sei esattamente nel posto in cui Dio vuole che tu sia. Quindi fai, respira, facciamo un esercizio di respirazione oggi. Calma, tranquillo, oggi Gesù voleva che tu fossi qui perché ha qualcosa di importante da dirti, da dire a noi. E le nostre paure diventeranno piccole, perché le paure non vanno evitate, le paure vanno affrontate, vanno vinte, perché dietro quelle paure ci sono cose bellissime che ti aspettano. E sapete, io ho scelto di vivere una vita a un altro livello, ho scelto di non abbassare il mio standard per rispondere a queste domande, ho scelto di guardare la mia vita e di dire ok, questa non è la mia vita, ho scelto di fare un passo indietro e di guardare la totalità della mia vita, ho scelto di guardare che quando Gesù è con me, da quando Gesù è entrato nella mia vita, io non vivo più per le cose terrene. Io non vivo più per essere un laureato, per essere un lavoratore, per essere un padre di famiglia, per essere... Sono cose fondamentali e importantissime. Però io vivo per uno scopo eterno, di cui queste cose fanno parte. Io vivo per l'eternità, io vivo perché ho uno scopo eterno. Quindi non focalizziamoci. È sbagliato quando tante volte ci focalizziamo su quella piccola situazione che sta succedendo, che per noi è grandissima perché ci troviamo nella nostra vita e guardiamo ok, ho solo questi anni per risolvere questa situazione. Ma se tu fai un passo indietro e guardi l'eternità, tutte quelle problematiche, tutti quei problemi, tutte quelle ansie prendono un'altra forma. Prendono un'altra forma. Il piano di Dio, che è il motivo per il quale tu sei stato creato, continuerà ad andare avanti. E tu ne sei parte. Ne sono stati parte persone 1000 anni fa, 2000 anni fa, e tu ne sei parte oggi. E questo piano continua ad andare avanti, e tu ne sei parte. Tu sei dentro questo piano. E le tue paure fanno parte di questo piano, ma proprio battendo le tue paure, vincendole, vedrai l'eternità che Dio ha preparato per te. Sapete come ho fatto io a comprendere meglio questa cosa? Non è stato facile, assolutamente. Però mi ha aiutato tantissimo. Ho letto questo verso della Bibbia che dice così. Prima lettera di Pietro 2:1-5. Bellissimo questo verso. Ci dà delle indicazioni piuttosto pratiche e ci dice questo: sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza, come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale. Perché? Perché con esso cresciate per la salvezza, se avete davvero gustato che il Signore è buono. Accostandovi a Lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa. Anche voi, come pietre viventi, siete stati edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Questo verso mi ha fatto capire una cosa bellissima, che sulla terra, qui tra di noi anche, in questo momento, esistono due categorie di persone. La prima categoria è quella categoria che ogni giorno, e io ne facevo parte, ogni giorno si sforza e si affanna per trovare una risposta a quelle domande che vi facevo prima. Quindi per trovare una risposta alle domande che la gente ti fa ogni giorno. Quella è una categoria di persone. Tu oggi puoi scegliere di far parte di un'altra categoria di persone. Cioè, anziché dare importanza a quelle domande, trovare risposta alle domande che Dio ti fa. E quelle risposte ti aiuteranno per la tua vita terrena, ma anche per quella extraterrena, per l'eternità. Io davvero vorrei oggi che noi andassimo via da qui e afferriamo il fatto che noi non siamo nati per uno scopo terreno. Tu sei nato per essere la casa spirituale di Dio. Tu sei stato edificato per essere la casa spirituale di Dio. Questo è il tuo scopo. Questo è il perché tu sei nato. Quando tu ti guardi allo specchio, non guardare una persona con problemi, con tutto quello che hai. Tu non sei nato per essere un dottore, un avvocato, un operaio. Sicuramente il lavoro è fondamentale. Io lavoro e il lavoro è importantissimo. La famiglia è importantissimo. Sono valori chiave per la nostra vita. Ma tu non sei nato per vivere per questo. Tu sei nato per essere la casa spirituale di Dio, per essere la casa del Signore. Quindi quando ti guardi allo specchio, tu sei nato per uno scopo più grande. Tu sei importante. Dì alla persona accanto a te, oh, tu sei importante, e scuotilo così. Tu sei importante, tu sei stato creato per cose meravigliose. Non ti accontentare di quello che stai vivendo. Non ti accontentare del fatto che ogni giorno vai a lavoro, beh, poi torni a casa, c'è la famiglia, sono cose bellissime. E tutti quanti noi andiamo a vivere questo, ed è giusto, ora capiremo anche come farlo. Però ricordati che prima di tutto tu sei stato creato per cose più grandi di queste. Cioè, attraverso di te, Dio sta scrivendo il suo piano. Tu sei parte di questo piano che va avanti da migliaia di anni. Cioè, è bellissimo. Tu sei importantissimo. Tu sei stato creato per cose massicce, fantastiche. Cioè, un destino di vita meraviglioso passa attraverso di te. Nel momento in cui tu incontri Gesù e scegli di accettarlo e di essere parte di questa casa, la tua vita viene completamente trasformata. E io ho voluto un po' racchiudere tre consigli, io li chiamo così, tre consigli per comprendere meglio come fare ad essere la casa del Signore. Perché spesso quello che ho notato sulla mia vita è questo, che il mio desiderio sarebbe di vedere qui tutti i miei amici, tutta la mia famiglia, io li voglio vedere tutti qua, i miei clienti, che saluto, sempre un saluto ai miei clienti. Io li saluto, io vorrei vederli tutti qui, vorrei vedere questa chiesa piena di quelle persone. E quindi spesso mi capita, no? C'è un evento e io li invito, dico dai venite, venite, bellissimo, c'è il live, oh raga venite, venite, venite, venite, venite, venite. E poi mi sono reso conto, ho detto ok Mario, ma tu gli stai dando una motivazione giusta per venire? Cioè tu li stai invitando, ma dove li stai invitando? Li stai invitando in questo posto o li stai invitando ad essere parte della casa del Signore? E questo mi ha fatto capire che la casa del Signore non è questo posto. Come abbiamo letto prima, tu sei nato per edificare la casa del Signore. La casa del Signore sei tu. Questo vuol dire che quelle persone avranno accesso alla casa del Signore solo attraverso la tua vita. Se tu sarai pieno di Dio, cioè dentro di te abiterà il Signore, quelle persone lo vedranno e ne saranno proprio, verranno scappando, neanche glielo devi dire, staranno vicino ai vetri così e non vedranno l'ora che si apre la porta. I tuoi amici hanno bisogno di vedere in te, la tua famiglia, i tuoi figli, i tuoi genitori, i tuoi fratelli, hanno proprio bisogno di vedere in te qualcosa di diverso. Tu rappresenti la casa del Signore, non servirà invitarli, sarai tu a portarla da loro. E poi loro ne saranno attratti, diranno, oh, questa persona, Carli, ha qualcosa di speciale, diversa. Gianluca, è diverso. Io voglio capire che cosa hanno di diverso queste persone. E lì subentrerà il fatto, tutto quello che poi succede, no? Il partecipare agli incontri, il far parte di un gruppo, tutto il percorso che poi il Signore vuole, anche che noi seguiamo. Ma quello è un passo successivo, il primo passo parte da te, parte dal fatto che tu devi essere consapevole del fatto che sei stato creato per qualcosa di più grande. Non per una vita ordinaria, ma per una vita straordinaria e grande. Tu sei parte della casa del Signore. Ok, il primo consiglio. Ce la faccio. Il primo consiglio è questo, sempre dallo stesso capitolo. Carissimi, l'ho estrapolato da questo verso. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima, avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Questo verso io l'ho tradotto con una parola. La parola che mi è venuta fuori da questo verso è purezza, ok? Tu, se vuoi rappresentare la casa del Signore di fronte alle persone che sono intorno a te, la comunità che ti circonda, il tuo vicino di casa, il tuo collega, i tuoi parenti, i tuoi amici, La prima cosa di cui devi preoccuparti è della tua purezza, purezza nei pensieri, perché tutto parte dai tuoi pensieri. Pensa a cose pure, pensa a cose buone, purezza nel tuo modo di parlare, evita parole negative, evita parole brutte, purezza nel tuo modo anche di vivere il tuo matrimonio, purezza nel tuo modo di vivere la tua relazione, purezza nel modo in cui tu ti approcci a ogni giorno che scegli di vivere. Ogni volta quando esci da casa tua o quando hai il telefono tra le mani o in ogni istante della tua giornata, scegli di essere puro. Scegli di non cadere, di non scendere al compromesso, di non firmare un patto e dire ok, io mi accontento di questo perché io sono stato creato per lavorare, per mettere su famiglia e ho tutto quello che mi basta. Non mi serve nient'altro. No, questa è una bugia, cacciala. Devi andare via dalla tua vita, perché non è vero. Tu sei stato creato per qualcosa di più grande. Tu sei stato creato per essere diverso. Essere puro è diverso. Quando tu scegli di guardare una persona dell'altro sesso con degli occhi o con degli altri, tu stai scegliendo di essere puro o no. Quando tu stai scegliendo di andare su determinati siti, su determinati profili su Instagram per chi usa i social, su Facebook, di guardare alcuni programmi anche in TV, di guardare i tuoi colleghi, le tue colleghe, le persone che ti ruotano attorno, tu hai due modi per poter vivere queste relazioni, in maniera pura, quindi come Gesù le vedrebbe, o in maniera impura. E non è una condanna, perché so che noi siamo peccatori, nessuno di noi è perfetto. Non dobbiamo sentirci un dito puntato contro, ma dobbiamo comprendere l'importanza di essere puri, perché tu sei diverso. Probabilmente le persone attorno a te non possono comprendere questo. Ecco perché tu sei nella loro vita, per fargli capire che c'è un modo diverso per vivere le giornate, per vivere la quotidianità, per vivere il lavoro, per vivere i social network, per vivere la famiglia. C'è un modo diverso, battute diverse, modi di parlare diverso. Sapete perché? Perché nella diversità tu vieni fuori. Se tu ti adegui a quello che è attorno a te, non si vedrà che sei diverso, non si vedrà che hai qualcosa in più da offrire, non è visibile. Ma quando tu scegli di dire io questa cosa non la voglio fare, io questa cosa non la voglio fare, qualcuno ti chiederà perché non la vuoi fare. E in quel perché tu puoi dire lo scopo per cui sei stato creato, tu puoi dire perché scegli di essere diverso. Sfrutta le tue paure, perché dopo le tue paure, oltre le tue paure, ci sono le vittorie più belle. Ci sono tante persone che stanno aspettando di vedere qualcosa e tu gliela puoi far vedere, perché tu sei importante, perché tu sei grande, perché Dio è dentro di te e vuole fare cose meravigliose. Lo facciamo un applauso al Signore che si vuole servire di noi oggi. Tu sei importante, tu sei diverso da tutto il resto che è attorno a te. Non ti conformare, tu sei stato chiamato ad essere puro, perché nella purezza ci sono cose bellissime e la gente ne ha bisogno, perché tanti matrimoni si sfasciano proprio per mancanza di purezza, tante coppie si rovinano proprio per questo, tante famiglie si distruggono per mancanza di purezza e tu hai la soluzione tra le mani, tu ce l'hai, perché non gliela fai vedere? Facciamogliela vedere. Noi siamo chiamati a cose bellissime, perché questo vuol dire portare la casa del Signore fuori da queste mura. Non serve un evento, non serve un palco, non serve. La tua vita è il più bel palco di cui Dio si vuole servire. Questo è contorno. La vera chiesa è dentro di te ed è far parte di tutto questo. Dio è dentro di te. Portalo ogni giorno con te. Il secondo consiglio che voglio darti è questo: siate sottomessi per amore del Signore a ogni umana istituzione, al re come al sovrano, ai governatori come mandati da lui per punire i malfattori e per dare lode a quelli che fanno il bene. Questo verso non è tanto facile da digerire, perché la sottomissione è qualcosa che ci manda un po', no? In difficoltà, ci fa stare un po' scomodi, perché quando qualcuno ci chiede di fare qualcosa che è in autorità sopra di noi, a volte noi pensiamo che sia meglio farlo in un altro modo, no? Però sapete una cosa? State tranquilli, perché Dio lo sapeva che noi l'avremmo pensata così. Ed è proprio per questo che ha scritto questo verso. Perché? Perché vuole sfruttare il nostro impulso, il nostro... L'essere umano va in contrasto con questo verso. Però tu non sei un essere umano comune. Tu sei parte della casa del Signore. Quindi far vedere la differenza, quindi sottometterti al tuo datore di lavoro, ai professori, ai tuoi genitori, alle persone che sono in autorità sopra di te, al tuo pastore, alle persone che ti chiedono di fare qualcosa, non è facile. Ma quando tu lo fai, fai vedere la differenza. Siamo sotto Natale, no? Quindi ci riuniremo nelle nostre famiglie, saremo a pranzo, a cena, e sicuramente ci sarà qualcuno che inizierà a parlare male di qualcun altro, del suo datore di lavoro, del suo professore. Lì tu hai l'opportunità di far vedere che tu hai scelto di essere diverso. Fai vedere una strada diversa, fai vedere che c'è qualcosa di diverso in te, mostralo, mostra la tua diversità. Non cercare di adeguarti per piacere alle persone, perché se tu scegli di adeguarti per piacere alle persone, stai rispondendo alla prima domanda che ho fatto prima, quindi stai cercando una risposta alle domande che quelle persone ti fanno. Ma tu sei nato per rispondere alle domande che Dio ti fa. E Dio ti ha chiesto oggi di scegliere di essere sottomesso. Sii sottomesso. Perché quando sei sottomesso ti senti completo. Dici, ok, io non ho bisogno del favore di queste persone attorno a me. Io non ho bisogno del favore di questa tavola, io ho bisogno del favore di Dio. Perché so che il favore di Dio mi porterà ai cuori di queste persone. Ma se tu scegli di accontentarli, rimarrai sempre in superficie. Scegli di essere completo con Dio. Anche quando, ho detto ai ragazzi venerdì, quando siamo single, no? Non cerchiamo di guardare attorno a noi qual è la persona migliore per noi. Non cerchiamo di guardare attorno a noi chi potrebbe essere nostra moglie. È sbagliato. È sbagliato. Quello che devi preoccuparti piuttosto di fare è questo. Preoccupati di essere la persona giusta da sposare. Preoccupati di essere il marito buono da sposare affinché Dio ti provveda una moglie accanto, che si sarà preoccupata della stessa cosa di cui tu ti sei preoccupato. E le famiglie vanno avanti e funzionano in questo modo. Io prima di sposare Nella ho vissuto un periodo in cui sono stato solo. E sapete qual è stata la cosa più bella? Che io mi sentivo completo nonostante non avessi nessuno attorno. Quello è stato il periodo più bello della mia vita. Poi dopo ho sposato Nella e quello è stato il periodo più bello della mia vita, ok? Dio ti sorprende ogni volta. Però tu scegli di essere diverso dagli altri, perché tu sei stato creato per essere diverso. Non ti conformare. La casa del Signore è dentro di te, tu ne sei parte. E Dio vuole servirsi di te per farlo vedere. Il mio terzo ed ultimo consiglio è questo. Perché? Perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene, turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Quello che ci blocca tante volte dal fare tutto quello che ho detto prima, che ho detto fino ad ora, è proprio il fatto che abbiamo paura che persone attorno a noi possano parlare male di noi e parleranno male. Ve lo dico in anticipo. Parleranno malissimo di noi. Però noi non stiamo combattendo contro quelle persone, quindi noi le continueremo ad amare. Noi stiamo combattendo contro il peccato. Quindi facciamo questa distinzione. Anche se una persona parlerà male di te, non odiarla, amala. Odia il peccato che è in lui e prega per il peccato che è dentro, che possa andare via. Ma prega per il bene di quella persona. Noi dobbiamo fare il bene. Il pastore la settimana scorsa ci ha parlato di gioia. Svegliati la mattina e scegli di essere gioioso. Scegli di portare il sorriso, la gioia, il bene, l'amore. Ovunque tu vada, non uscire con una faccia triste. Esci con una faccia sorridente. Anche se piove, esci con la faccia sorridente. Anche se ti bagni tutto, esci con la faccia sorridente. anche se il barista ti sbaglia il caffè, fagli un sorriso, incoraggialo. Anche se le persone che vengono da te ti fanno richieste in maniera arrogante e negativa e ti buttano addosso tutto il male che è nella loro vita, in quel momento tu hai una grande opportunità. Questa cosa ti spaventa, no? Ti fa paura, ti fa male, ti fa arrabbiare. È un'opportunità per rispondere con l'amore all'odio che ti viene versato contro. E l'amore vince sempre. Quella persona verrà toccata, dirà questo è diverso. E poi verrà il giorno dopo a chiederti altre cose e tu gli risponderai di nuovo con amore. E questa persona dirà questo è diverso. E poi ti chiederà perché sei diverso. E tu avrai modo di raccontargli perché sei diverso, perché tu sei stato creato per cose più grandi. Tu sei stato creato per essere diverso. Tu sei stato creato per edificare la casa del Signore. La casa del Signore è dentro ciascuno di noi. Non ci accontentiamo di quello che stiamo vivendo, di quello che stiamo vedendo ogni giorno. Non ti accontentare. Se fino ad oggi ti sei comportato così, va bene. Ma tu stamattina, non dico dal 2019 vivremo una nuova stagione, sarà bellissimo, no. Le stagioni iniziano quando tu scegli di farle iniziare. Oggi inizia a sforzarti, a combattere e a dire io voglio rispondere in modo diverso, io voglio essere puro, io voglio essere sottomesso, io voglio rispondere con amore all'odio che mi viene contro, perché so che in questo modo posso cambiare il destino di vita di quelle persone, perché Dio lo può fare. Da oggi tu lo puoi scegliere. Non sarà facile, non è facile. Sapete perché non è facile? Perché la ricompensa che vi aspetta dopo tutto questo, che ci aspetta, è grandissima, ed è per questo che è così difficile. È proprio difficile, ma noi ce la facciamo. E ho anche il perché noi ce la facciamo. Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. Quando tu ti comporti bene, ti aspetti che le persone attorno a te si comportino bene, che tutto vada bene. Non è così. Gesù, quando è venuto, non ha commesso un peccato. Gesù era l'uomo, Dio, perfetto. Non ha commesso un solo peccato. Eppure le persone attorno a lui lo hanno condannato, lo hanno giudicato e lo hanno appeso come il peggiore dei malfattori. Quindi non ci possiamo aspettare che le persone vengano da noi quando noi li sorridiamo e ci dicano wow, che bello, grazie. No, aspettiamoci che vengano e anzi fai una cosa, non ti aspettare niente. Ma tu fallo lo stesso, perché la tua ricompensa non è qui. Fai un passo indietro e guarda la tua vita. Qual è il mio sogno? Il mio sogno è che quando Gesù scenderà sulla terra di nuovo, possa venire da me, e io mi auguro possa venire da te, darti una pacca sulla spalla, dire bravo Mario, sono contento di ciò che hai fatto nella tua vita, grazie. Possa andare dal pastore, possa andare da Elijah, possa andare da ciascuno di noi, da ciascuno di noi, e dire grazie. Quel grazie ricompensa ogni cosa, ogni risposta brutta, ogni sguardo, ogni ferita, le ricompensa tutte. Tu sei stato creato per uno scopo più grande, tu sei stato creato per quel grazie, tu sei stato creato per edificare quella casa. La casa del Signore è dentro di te, non lo dimenticare mai, mai, mai, non perderlo mai di vista, perché ogni giorno dovrai affrontarne di cose, ma non perderlo mai di vista. Tu sei diverso, non ti adeguare, non ti adeguare, non ti adeguare. E io voglio chiedere a tutti quanti noi di chiudere i nostri occhi. E voglio chiederti, se sei qui per la prima, la seconda, una delle tue prime volte magari, o se fino ad oggi ti rendi conto che non hai mai scelto Gesù nella tua vita, davvero. Oggi è la possibilità di farlo e di uscire da questo posto diverso e trasformato. Quindi, mentre tutti abbiamo gli occhi chiusi e la testa abbassata, io voglio chiederti, se tu senti questo per te, alza la tua mano e non ti vergognare di questo, perché è la scelta più bella che tu possa prendere, l'unica che può trasformare ogni lacrima in sorriso. Grazie. Potete abbassare la vostra mano, grazie, vi ho visto, grazie. C'è qualcun altro? Ok, quello che faremo adesso è una preghiera, la faremo tutti quanti insieme ad alta voce. Perché? Perché vogliamo dedicare questa preghiera a Gesù e dire a Gesù: io oggi scelgo di entrare a far parte della tua casa. Non di una religione, non di una chiesa, non di un gruppo, no, della tua casa. È una scelta intima tra te e Gesù. Quindi tutti insieme vorrei che ripetessimo le parole che io dirò in questo momento. Signore Gesù, grazie per questo giorno. È bellissimo poter dedicare la mia vita a te. Ti chiedo scusa se fino ad oggi non l'ho fatto. Perdona i miei peccati. Da oggi in poi voglio che sia tu a guidare la mia vita. E io ti dedicherò la mia. Ti amo, ora e per sempre. Amen. Amen. Amen. E quando facciamo questa preghiera in cielo è festa, e quindi sarebbe bello che anche qui facessimo festa con un grosso applauso. Grazie Gesù, perché il piano che tu hai per noi non si ferma. E ora invece voglio chiedere a te, che hai già vissuto il battesimo da adulto e che fai parte di questa famiglia, di vivere la cena del Signore che stiamo per fare, scegliendo ogni giorno di portare la casa del Signore dentro di te. Fai un patto stasera con Gesù, fai un patto col tuo Padre, fai un patto col tuo Re, fai un patto col Creatore di ogni cosa. Digli: Signore, io stasera ho scelto di essere diverso, io stasera ho scelto che voglio essere diverso, perché so che se sono diverso tu arriverai, perché so che se sono diverso le persone attorno a me vedranno te. Io voglio che tu venga fuori, non io. Quindi, se lo hai fatto, se sei battezzato da adulto, io ti chiedo veramente di prendere questa scelta, perché questa scelta cambierà non solo la tua vita, ma la vita di tante persone attorno a te, della tua famiglia, dei tuoi amici. Io sogno per noi. Non ci accontentiamo, noi possiamo farlo. Noi abbiamo l'unico vero Re a nostra disposizione, che ci serve, che è venuto per servirci e per trasformare la nostra esistenza. Permettiamoli di farlo. Permettiamoli di farlo.